Mix 24 di Giovanni Minoli. Presidente Xi Jinping, che giovedì e venerdì sarà a Mar-a-Lago in Florida, la residenza privata del leader americano. Se la Cina non aumenta le sue pressioni sulla Corea del Nord, agiremo da soli, lo dice Trump. Pochi giorni dalla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, l'America ribadisce è pronta ad azioni unilaterali per eliminare la minaccia nucleare rappresentata da Pyongyang. In un'intervista al Financial Times, l'inquilino della Casa Bianca ha spiegato che al centro dei colloqui non ci sarà il commercio internazionale, pure un argomento cardine, ma l'escalation militare di Kim Jong-un. L'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, aveva affermato che Washington intende fare pressioni su Pechino. Per questo la messa in guardia di Trump alla vigilia dell'incontro del 6 aprile prossimo in Florida con Xi Jinping, primo incontro tra i leader di Washington e Pechino, assume una valenza molto pesante. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Dunque, Xi Jinping arriva negli Stati Uniti, ospite di Donald Trump in Florida. Buongiorno a Marta Dassù, direttore di Aspegna. Ecco, La Corea del Nord allora sarà il primo punto dell'agenda dell'incontro tra Trump e il presidente cinese? Ma non saprei se sarà esattamente il primo punto, ma sarà in ogni caso un punto decisivo. Trump ha detto al Financial Times nei giorni scorsi che chiederà alla Cina di aiutare la soluzione della crisi, e se non lo farà, gli USA dovranno vedersela da soli, come è da vedere. Ecco, appunto, Trump ha chiesto aiuto ai cinesi, che sono il primo partner della Corea del Nord. Sì. Ma Pechino vuole disarmare Kim? Ma Pechino è molto ambigua su questo punto, perché in realtà Pechino teme un crollo del regime nordcoreano, e il regime nordcoreano ha nelle armi nucleari la sua unica garanzia di sopravvivenza. Perché teme un crollo? Perché ci sarebbero due scenari, entrambi negativi per la Cina: una marea di rifugiati verso le frontiere cinesi, oppure una Corea riunificata con truppe americane alle frontiere cinesi. Gli americani hanno ancora 25.000 uomini in Corea. Ecco, ma dottoressa Dassù, ma è possibile allora immaginare un'azione di guerra preventiva degli Stati Uniti contro la Corea del Nord, o è solo propaganda? Tecnicamente, teoricamente possibile, ma politicamente rischiosissimo, perché è chiaro che la Corea del Nord risponderebbe sugli alleati americani nel Pacifico, e cioè la Corea del Sud, Taiwan, il Giappone. È il Giappone. Secco, ci sarebbe un mare di fuoco, appunto, certo, come ha minacciato la Corea del Nord. Ma secondo lei il presidente cinese sarà conciliante con Trump, o sarà uno scontro su questo punto? Ma i cinesi sono sempre, come lei sa meglio di me, apparentemente conciliati, poi fanno quello che vogliono. In realtà cercherà di dire che aiuta la Cina. Nei mesi scorsi ha, per esempio, moderato le importazioni di carbone dalla Corea del Nord. La Corea del Nord praticamente esporta l'85% di quello che ha, che poi è un po' di carbone, alla Cina. Se la Cina decidesse veramente di strangolare economicamente la Corea del potrebbe Nord, potrebbe farlo. Ecco, dottoressa Dassù, il deficit commerciale, anche se si dice che non è un tema centrale, però il deficit commerciale con la Cina per gli Stati Uniti è pauroso, quasi 400 miliardi di dollari. Secondo lei Trump chiederà un riequilibrio in qualche modo di questa situazione? Certamente lo chiederà, in parte ha ragione. Nel senso che è chiaro che la Cina non sta giocando su quello che in gergo si definisce un level playing field, non sta giocando con le stesse carte con cui giocano i paesi occidentali, è largamente protezionista. Quindi Trump pone un problema, secondo me, giusto, cioè un commercio internazionale più equo, ma dà una risposta, sempre secondo me, sbagliata, e cioè l'imposizione di dazi che porterebbero verso una guerra commerciale molto negativa per tutti, e anzitutto per i paesi esportatori europei come la Germania, certo, e come l'Italia. Quindi è un grosso problema, io credo, da affrontare in altro modo. Ma sì, cioè? Spingendo la Cina a fare dei veri passi e non dei passi solo parziali verso un'economia. Cioè, in cambio che cosa può dare la Cina, Xi? La Cina può decidere di investire le enormi riserve finanziarie che ha in quel fantomatico programma di investimenti nelle infrastrutture, un trilione di dollari che Trump ha annunciato con grande enfasi, e in effetti sta facendo dei passi in questo senso. Ha fatto dei grossi investimenti nelle ferrovie la settimana scorsa, Noi siamo abituati a un mondo in cui le imprese americane delocalizzavano in Cina e i consumatori americani compravano a basso prezzo i prodotti cinesi prodotti là. Adesso ci dovremmo abituare a un mondo in cui i cinesi investono largamente negli Stati Uniti. Ecco, ma i cinesi nel frattempo si stanno riarmando. Il Pacifico rischia di diventare un terreno di scontro militare? Ma certamente sì, perché la Cina, che è in rallentamento economico, naturalmente sempre secondo i suoi standard, certo, naturalmente, 5-6%, poi queste statistiche cinesi sono sempre misteriosissime, ma insomma fondamentalmente usa il nazionalismo come un'arma di politica interna per mantenere il consenso, e quindi sta avendo una politica abbastanza aggressiva su queste rivendicazioni nel mar della Cina meridionale, quindi un conflitto è certamente possibile. Ecco, dottoressa Dassù, Trump ieri ha rimosso Bannon dal Consiglio di Sicurezza Nazionale. È un cambio di strategia in che direzione, oppure era una cosa prevista? Ma prima di tutto è una buona notizia, secondo me, visto che Steve Bannon è un ideologo e l'ideologia, l'eccesso di ideologia in politica estera non fa mai bene. È un bene anche che la macchina del National Security Council si ristrutturi in senso più classico, anche perché il Dipartimento di Stato ha avuto una botta terrificante con Trump, ha avuto un grosso taglio di fondi e ci sono una quantità di nomine ancora non completate. Quindi è importante che il generale McMaster abbia ripreso in mano questa macchina. Ecco, ma che ruolo gioca il Giappone in questa partita a scacchi tra la Cina e gli Stati Uniti? Ma Abe, il leader giapponese, gioca a fare l'alleato preferenziale degli Stati Uniti, è uno dei pochi summit bilaterali che è andato decisamente bene. Il Giappone è chiaramente dalla parte degli Stati Uniti, anche se ha degli interessi economici come tutti noi con la Cina. Certo. Senta, dottoressa Dassù, ma il Pacifico è il Pacifico il rischio più grande per la stabilità del mondo, oppure il Medio Oriente? Ma credo sono entrambi in modo diverso. Kissinger, che rimane informissima, l'ho visto a Washington alla trilaterale, nonostante i suoi più di 90 anni è ancora veramente interessante da ascoltare, sostiene che il Pacifico è un po' come l'Europa dell'inizio del secolo scorso, quindi la possibile chiave di una nuova guerra mondiale, cosa che non è per niente tranquillizzante. In Medio Oriente le guerre le vediamo, ci sono, certo. C'è la tragedia siriana da 6 anni. Ma Mosca è sempre stato il muro di contenimento della Cina nei confronti dell'Europa, per questo è necessario trattare col Cremlino, togliere le sanzioni il più in fretta possibile? Ma sarebbe in teoria una buona cosa se Putin giocasse al nostro stesso gioco. Per il momento gioca a fare il revanchista, seppure nelle aree di confine, per esempio l'Ucraina, ma è chiaro che sia per gli europei che per gli americani, finché non ci saranno veri passi avanti sull'Ucraina, sarà molto difficile togliere le sanzioni. Beh, occupa anche degli spazi che gli americani hanno abbandonato. Certamente, in Medio Oriente. Uno dei problemi del sistema internazionale di oggi è che l'America, non da Trump in poi, ma da varie amministrazioni, certo, questa parte, sì, incluso Obama, c'è molta più continuità, insomma, di quanto non si dica, l'America ha deciso di occuparsi essenzialmente di sé, prima di tutto di sé, e di non fare più il garante per tutti del sistema internazionale. Ecco, a proposito di questo, secondo lei in questo apparente caos in via di riorganizzazione si sta disegnando un nuovo ordine mondiale oppure no? Ma senta, per ora mi sembra che siamo ancora al grande disordine e alla grande riorganizzazione. Certamente un nuovo ordine non può prescindere da un rapporto che funzioni tra gli Stati Uniti e la Cina, e quindi questo vertice è davvero importante. Credo che un nuovo ordine sarà essenzialmente regionale, e cioè si baserà su un balance of power, su un equilibrio delle forze regionali. Anche per questo è importante che l'Europa non si disintegri e regga, perché se la dovrà cavare da sola. Anche se in questo momento l'Europa sembra davvero un pochino fuori da tutto. Si occupa di sé, diciamo così, molto. E abbiamo due grandi sfide, le elezioni in Francia, le elezioni in Germania, e poi anche le nostre, naturalmente. Certo, ma c'è bisogno in questo scenario globale, a un certo punto, di una nuova Yalta allargata alla Cina? Ma nuova Yalta per noi vuol dire un nuovo ordine europeo allargato alla Russia. La Cina, secondo me, gioca la sua partita per ora nel Pacifico, non ha Stati la Uniti. Forza politica, non ha la forza politica di avere un peso in Europa, ha un peso economico crescente, ma secondo me non ha ancora un peso politico rilevante. Senta, dottoressa Dassù, un'ultima cosa, da domani fino a sabato manager, leader politiche, imprenditrici, studiose provenienti da ogni parte del mondo discuteranno alla Farnesina di diseguaglianze sociali, economiche, sì, integrazione, parità dei diritti. Insomma, faranno il G7 delle donne. Sì. Cioè, con quale obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di dire che il fatto che le donne partecipino di più al mercato del lavoro non è solo nell'interesse delle donne, ma è nell'interesse della crescita nel suo insieme. Prendiamo il caso dell'Italia, le donne sono ancora meno del 50% come partecipazione al mercato del lavoro. C'è una correlazione molto stretta fra la nostra stagnazione economica e il fatto che le donne non riescano a lavorare in numero sufficiente. Grazie dottoressa Dassù, grazie, buon lavoro. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, rapidamente, tu credi che da questi incontri si arriverà a un inasprimento dei rapporti fra la Russia e la Cina, fra gli Stati Uniti e la Cina, oppure no? No. Dovrebbero trovare qualche punto di accordo. Sì. Nord Corea sicuramente faranno dei passi avanti. E poi bilancia commerciale, perché comunque l'uno ha bisogno dell'altro, certo, in qualche modo questi soldi devono spendere. Assolutamente. Tu Petrangelo che dici? La mia idea è che la Cina, malgrado la possanza, è laterale rispetto alla strategia americana, sì, e credo che ci sia un nuovo elemento. Trump è costretto ad arretrare rispetto alle sue posizioni ed è obbligato adesso a riaprire il fronte con la Russia. Vabbè, obbligato, certo, dal sistema di potere americano, sì, che ha molta più forza di quanto ne abbia lui. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Il decimo municipio della capitale, quello di Ostia, periferia marina di Roma, è commissariato per mafia. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di... Nonostante la magistratura lo avesse segnalato da tempo, è solo a marzo del 2015 che la politica capisce la gravità della situazione. Il mini sindaco di Ostia, Andrea Tassone, del PD, alza bandiera bianca con queste parole: mi dimetto, sono troppo forti le pressioni della criminalità. Fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie. Che la mafia sia presente ad Ostia è un tema che ha almeno 15 anni. A livello di mafia come cittadini avvertiamo poco, però c'è. Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno. Famiglie bisognose costrette a pagare il pizzo per avere un tetto. Qui si spara per il traffico di droga. Questa è Ostia. Semplicemente pensa prima di sparare, pensa. Federica Angeli, giornalista di Repubblica, vive sotto scorta dal 17 luglio del 2013 a causa di minacce di morte subite per un'inchiesta fatta sulla mafia a Ostia. E proprio di Ostia è tornata a scrivere sulle pagine del suo giornale in questi giorni. Federica, ecco, tu ti occupi delle infiltrazioni mafiose a Ostia dal 2013. Come hai cominciato? Tanto per cominciare, io sono nata e cresciuta in questo quartiere, però nei 20 anni di, insomma, prima collaborazione e poi in organico a Repubblica non mi ero mai occupata veramente di Ostia. E che cosa ti ha fatto scattare questa... Ma in realtà tutto nasce da un'idea del giornale di fare un'inchiesta a tutto campo sul mondo di sotto, quello che poi Carminati, sì, definirà il mondo di sotto. Quindi ci siamo spartiti, io e altri colleghi, diverse zone, chi ha fatto Torbella Monaca, chi si è occupato del quadrante est della città in mano ai senese, e io per comodità, insomma, anche perché li conosci, appunto. Esatto, anche i nomignoli e i soprannomi, mi sono occupata di Ostia. Ecco. Quello che scoprì allora è, diciamo, che questo clan, uno dei tre clan, perché sono tre in questo territorio, Triassi, Fasciani e Spada, diciamo il clan Spada stava tentando il salto di qualità, ovvero entrare nel circuito legale delle attività commerciali. Ma oggi, perché, rispetto a quando è cominciato, la situazione è peggiorata? Ma guarda, se non peggiorata, diciamo che è rimasta immutata, malgrado il commissariamento, malgrado i processi, gli arresti, malgrado siano sotto gli occhi dei riflettori, perché io comunque cerco, certo, anche attraverso i social network di tenere sempre alta la soglia. Quando ho iniziato un mesetto fa, io e il mio collega Enrico Bellavia, a lavorare a questa inchiesta, mi sono accorta che in realtà è nel giro di 8 mesi, malgrado tutto questo. Non era cambiato niente. Tu infatti hai scritto in questi giorni, Racconti di una città dove tutto è in mano al clan degli Spada, che si muove, sono le tue parole, seguendo uno schema collaudato, cioè? Cioè loro si avvalgono praticamente della complicità, questo almeno abbiamo scoperto lavorando sul campo, di un agente immobiliare che contatta questi commercianti che prima ancora siano rivolti ad una banca per avere comunque dei prestiti perché soffocati dalla crisi. Casualmente si presenta sempre questo agente immobiliare, contatta i commercianti, li fa andare nel suo ufficio e lì si trovano davanti a disbrigare la pratica per un mutuo facile che è ottenibile in poco tempo, Spada e Fasciano in persona, che propongono a questi commercianti di interessarsi per un mutuo malgrado siano protestati, malgrado siano in ritardo coi pagamenti, ma nel frattempo, prima mostrano il volto dell'angelo, per alleggerirli dai debiti, loro possono trovargli degli affittuari per i loro commercianti. Quindi gli trovano chi affitta il loro locale, poi anche dell'affitto non glielo pagano e finisce esatto. Lì. Tu, a capo quindi, di questa organizzazione, l'hai scritto, c'è Armando Spada, sì. 5 anni e 8 mesi per corruzione aggravata dal metodo mafioso, la condanna sì. che ha avuto, per aver tentato di impadronirsi del leader Orsa Maggiore. Insomma, sì. una figura che è nota a tutti, che però continua a agire indisturbata, se ho capito bene. È questo che fa venire il mal di testa, cioè che dà quel senso di vertigine, come quando ti viene addosso una macchina e hai certo. il colpo della frusta e sei stordito. Io esattamente questa è la sensazione che ho provato. Mi sono sentita impotente, mi sono sentita veramente che, come mi disse mentre mi sequestrò al Lido Orsa Maggiore, che appunto l'inchiesta che, da cui è partita l'inchiesta della procura che lo vede condannato adesso, e lui mi sequestrò in una stanza e mi disse: volta la penna altrove perché io ti ammazzo, ti sparo in testa a te e ai tuoi figli, qui comandiamo noi e vinciamo sempre noi. Ecco, io quando ho cominciato a lavorare adesso ho pensato probabilmente aveva ragione, vincono sempre loro, ma c'è un lieto fine. Il lieto fine infatti c'è stato, perché la tua denuncia è il coraggio della signora, no? Racconta tu com'è andata. È andata che era previsto lo sfratto, la terza notifica di sfratto per queste persone e per i prestanome, perché il bar è gestito da un prestanome evidentemente degli Spada, e così almeno si legge anche nella denuncia. E poi io ho fatto appostamenti, ho immortalato Spada dietro al bancone a fare gli ordinativi, quindi a tutti gli effetti posso affermare che è lui che ci sia dietro questo bar. Dopo questi articoli si è mossa la forza pubblica, abbiamo assistito allo sfratto degli Spada e fra 3 giorni l'attività tornerà in mano alla signora. Beh, fantastico, quindi la tua denuncia, il coraggio della signora, in questo caso comunque la prima vittoria l'hanno avuta. La prima vittoria, quello che io adesso mi auguro, siccome queste persone hanno venerdì scorso bruciato, verosimilmente queste persone perché gliel'avevano promesso, però non abbiamo ancora la certezza, un'altra attività commerciale, un altro bar della signora di cui volevano entrare in possesso, io spero che adesso non sia lasciata sola. La mia penna c'è e a fianco. Vabbè, noi siamo qui nel nostro piccolo, anche noi siamo qua. Ecco, la sua parte, insomma. Ecco, perché chi ha il coraggio di denunciare deve capire che lo Stato è più forte, che non è, certo. che non è da sola e che, noi, e che non si può sempre giocare in difesa, ma lo Stato adesso deve giocare in attacco. La procura farà il suo, la politica deve, ha l'obbligo di stare accanto a chi denuncia e sceglie di stare dalla parte dello Stato. Esatto. Questo è il mio punto di vista. Senti, tu, l'abbiamo detto all'inizio, vivi sotto scorta dal 2013 per aver indagato e denunciato la mafia Ostia. Da allora hai subito altre minacce? Sì. Mi è stata messa la benzina sotto la porta di casa alle 4:30 del pomeriggio mentre ero con i miei figli, passano sotto il balcone di casa mia a gridarmi infame, gli infami muoiono nel cuore della notte, e una macchina che avevamo venduto da poco ma era comunque parcheggiata sempre sotto casa nostra misteriosamente ha preso fuoco. Ci sono stati, diciamo, dei segnali, e anche attraverso i social network, apertamente dai loro account, neanche fake, diciamo proprio il loro nominativo, hanno detto che nel mirino ora ci sono i nostri tre bambini. No, senti. È una guerra che è ancora in corso, sapevo non essere facile, lo sconforto a volte mi prende perché non sono Wonder Woman, però la testa non mi sento di piegarla. Assolutamente. E non la piegherò. Senti, ma la politica non c'è in tutto questo? Allora, erano presenti ad abbracciare la commerciante e a scambiarsi numeri di telefono e a con promesse di interessarsi al suo caso. Dico la verità, c'era Orfini e il senatore Esposito dell'antimafia. Oggi si sono mossi, ma è ovvio che non stando proprio qui in pianta stabile a Ostia, probabilmente certo. Credo siano stati gli articoli a aver, però non si sono tirati indietro. Vabbè, insomma, è un primo passo anche avanti, della politica. Vabbè, veramente cerchiamo di vederla in positivo. Comunque tu sappi che noi, anche noi, per quel poco che vale, noi ci siamo. Io una cosa, hanno paura dei riflettori, perché infatti agiscono bene al buio. E noi teniamoli accesi, va grazie. Bene? Ecco una storia coraggiosa, quella della Angeli, Mario, che dici? Poco intervento della politica, però sì, una presenza adesso, poco perché, speriamo che poi poco abbia perché, peso. Perché pensano che non ci sia un ritorno, diciamo, di consenso, quindi non seguono. Io la storia dell'Angeli la seguo, ci seguiamo a vicenda, diciamo, è brava. Molto. È brava. Senti, Pietrangelo, sembra che questa mutazione genetica che ha portato la mafia sempre più a nord, no? Peggiorando quasi, se possibile, la sua modalità di azione. Peggiorando perché al nord ci sono più soldi di quanti ce ne siano al sud. Peggiorando anche perché il punto è quello che tu evidenziavi nella tua domanda, e cioè il vuoto della politica. Perché quando la politica si ritrae, nel territorio domina la delinquenza. Ricordiamolo comunque che la mafia vera adesso è in carcere. Certo. Sono tutti dentro le carceri. La delinquenza prende il sopravvento sul territorio e nei ruoli decisionali c'è la grande finanza. Questo è la tenaglia che stritola la gente. Ecco, Alfonso Sabella, che è un magistrato, ex assessore della legalità della giunta Marino, che ha scritto un libro, Capitale Infetta, edito da Rizzoli. Ecco, Sabella, lei ha detto: Roma non è una città mafiosa, ma una città corrotta. A Ostia invece vale il contrario, cioè? Il problema di Ostia principale sono i condizionamenti che l'amministrazione locale ha avuto, probabilmente adesso non certamente non, cioè abbiamo una commissione d'accesso e un prefetto che sta gestendo benissimo la situazione, quindi, ma che ha avuto all'interno di quell'amministrazione. Quindi tutto quello che ci ha spiegato bene con coraggio Federica Angeli, che sta scrivendo, è tutto così, insomma succedono cose diverse da quelle che succedono a Roma, a Ostia. Sì, non che Roma non abbia un problema mafia, perché anche a Roma il problema mafioso è abbastanza presente, però chiaramente non è la caratterizzazione di quella città. La città di Roma ha una caratterizzazione molto più di una città scalabile, di una città molto profondamente corrotta, di una città dove il malaffare non trova ostacoli reali, mentre Ostia, sia per una certa soluzione di continuità fisica che ha con Roma, sia per la vicinanza al litorale pontino e quindi alle delle infiltrazioni geografiche molto vicine con un certo tipo di criminalità organizzata, quale la camorra. Ecco, ma per essere anche per una tradizione storica che la lega anche a Cosa Nostra siciliana, perché io stesso quando ero a Palermo e indagavo per cercare il più grosso narcotrafficante della storia di Cosa Nostra, Pasquale Contrera, sono riuscito ad arrestarlo in Spagna, ma da un'indagine che è partita proprio da Ostia. Da Ostia, però, per esempio, il clan degli Spada, adesso con Armando Spada, che è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione proprio aggravata dal metodo mafioso, però va avanti indisturbato. Com'è possibile? Io parlo in questo caso non dal magistrato, ma da cittadino romano, quale sono e quale mi sento di essere. A me il fatto che in qualche sentenza passata in giudicato ci sia scritto o meno che a Ostia c'è la mafia interessa relativamente poco. Da cittadino romano e da amministratore pubblico io posso dire che la mafia a Ostia l'ho vista e sono assolutamente certo che ci sia, indipendentemente da quelle che saranno le conclusioni dei giudici, perché poi un processo penale ha delle regole, le regole che conosco benissimo, sono regole che possono portare alla condanna, all'assoluzione, a una determinata scelta piuttosto che a un'altra, ma queste prescindono in qualche modo da quella che è la realtà sociale. La realtà sociale di Ostia è una forte presenza dell'infiltrazione. Ecco, ma lei proprio ad Ostia aveva chiuso una palestra di proprietà degli Spada, ha detto quella chiusura è stato uno dei miei più grandi fallimenti. Perché? Non sono convinto, perché? Vede, io ho cercato di fare l'amministratore pubblico come cerco di fare il magistrato, come ho fatto sempre l'uomo di Stato, ispirandomi a un articolo della Costituzione, che è l'articolo 54,2, che dice che chi è chiamato a svolgere pubbliche funzioni lo deve fare con disciplina e onore. Disciplina significa rispetto delle regole, io lì la disciplina l'ho portata perché ho fatto rispettare le regole. Quello che non sono riuscito a portare è stato l'onore, perché la sostanza è stata che la mia azione ha privato una certa parte della popolazione di una palestra a costi contenuti, sia pure offerta alla criminalità. Io la volevo sostituire con una palestra sociale e non c'è riuscita. Ecco lì mi sono trovato tanta di quella burocrazia di mezzo, di quella me lo fa Palasci dire codardia, sì, che praticamente è stato sostanzialmente impossibile, ecco, avere quel bene in assegnazione. Dottor Sabella, lei aveva iniziato appunto un lavoro importante proprio sul litorale di Ostia, partendo dalla demolizione dei chioschi abusivi, spulciando centinaia di bandi affidati con procedure sospette e annullando tutto. Poi però il comune è stato sciolto per mafia e quindi il suo lavoro si è fermato tutto lì? Chi sta portando avanti questo lavoro lo sta facendo con, diciamo, con dei metodi un pochino diversi dai miei. Io mi ero imposto, in qualche modo me lo permetta, i metodi dello schiacciasassi che utilizzavo quando facevo il cacciatore di latitanti a Palermo. E tra l'altro avevo anche avuto delle vittorie importantissime, perché sono state emesse le prime ordinanze del Consiglio di Stato sul fatto che anche i cittadini romani sono uguali agli altri cittadini d'Italia e hanno diritto ad accedere liberamente al mare, sono state emesse proprio sulla base dei provvedimenti amministrativi. Ma adesso perché dice che viene portato avanti in un altro modo, cioè? Beh, diciamo che per una prima fase si è ritenuto di dover ricorrere ai sequestri, quindi al supporto dell'autorità giudiziaria, che è una scelta più che legittima, facendo i sequestri delle superfetazioni abusive che c'erano sugli stabilimenti. Okay. Io capisco questa scelta, devo dire personalmente, mi permetto di dirla, non la condivido molto. Ma non la condivide perché è una scelta più lenta? Le spiego perché. Non la condivido molto perché il ricorso all'autorità giudiziaria significa una sconfitta per l'amministrazione. Io credo che sia l'amministrazione che deve farcela, con i suoi mezzi provare a dare una soluzione. E io pensavo che tra le carte che ho spulciato ci fossero spazi per permettere all'amministrazione di avviare la decadenza di molte concessioni. Con la burocrazia insomma si riesce a bloccare tutte le cose che andrebbero fatte. Ma in qualche modo è Ostia si può considerare l'epicentro della capitale infetta? La manifestazione più chiara di quanto Roma sia a rischio di corrompere, come diceva Manlio Cancogni nel lontano 1955, l'intera nazione. Cioè, Ostia in qualche modo è la summa di fenomeni corruttivi che indubbiamente sono presenti, la summa di una sciatteria della pubblica amministrazione anche, che io ho riconosciuto, e la summa di una scalabilità da parte della scalabilità, esatto, che è oggettivamente facile. E infatti a proprio di scalabilità, Roma 5.000 tra bar, ristoranti, locali sono in mano alla malavita. Ma che malavita è? Non è mafia, cos'è? Attenzione, io temo che la procura diretta da Giuseppe Pignatone stia facendo un gran lavoro, perché sta mettendo finalmente a luce dei fenomeni che si stanno verificando nella capitale. Le mafie sono un virus, sono una specie di punterolo rosso che si infila all'interno dei gangli sani della società, dell'economia, dell'imprenditoria, e se li mangia vivi. Questo è quello che ha fatto al sud. Ora credo che il sud abbia finto di spostarlo. Certo. E quindi conseguentemente hanno deciso e hanno ritenuto, con la loro straordinaria capacità di adattamento, quindi con lo stesso metodo, di conquistare anche il nord. Magari è cosa ammazza di meno, anche perché al nord, molto al nord, centro nord, invece del Kalashnikov è più facile utilizzare la mazzetta. Certo. Come del resto ha detto la Cassazione nelle prime ordinanze, esatto, sul fenomeno mafia capitale. Senta. Ma la sostanza non cambia. Ecco, ma chiedo anche a lei, per chiudere, in tutto questo dov'è la politica? La politica a Roma io l'ho vista molto blanda e molto assente, nel senso che un discorso un po' tecnico, ma dopo la Bassanini, quando si è scelto di separare l'indirizzo politico dalla gestione amministrativa, scelta giustissima sul piano etico e sul piano pratico, ma in realtà questo ha portato a una deresponsabilizzazione della politica. L'idea era quella: la politica deve dare la visione e la burocrazia deve seguire. In realtà la politica alla fine, diciamo, ha deciso di soccombere rispetto a una burocrazia. Che è molto più preparata e molto più forte di lei. Del resto il mercato illegale se ne è accorto benissimo di questo. Se lei pensa che per corrompere... Infatti la corruzione è degli amministratori, non più insomma meno dei politici. Per corrompere un onorevole capitolino, un consigliere comunale, quindi il massimo rappresentante di Roma, della politica romana, gli si davano 1.000 euro al mese. Proprio non conta niente la politica romana. Doveva farsi corrompere 47 anni di fila, significa che per il mercato illegale la politica conta veramente poco. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, che sentiamo stamattina? Eccola qui. Tried hard to be strong for you, so your path was clear. All I did was long for you, and wish you'd come back here. Each morning sun would promise hope. To me it said, okay, get up, time for your heart to start to break again today. Beh. E stamattina le rondini hanno chiesto un passaggio a tutta la linea B della metropolitana. Anche qualche lucertola ha chiesto di aggregarsi. E poi i papaveri pronti a qualunque anticipo di sole, che se ne sono stati incollati davanti al tracciato delle corse come fosse un presagio della totalità infinita, che era l'andare e venire dei pendolari. Ha chiamato Cyrano de Bergerac, ma giusto per sapere una cosa: è stato Tolomeo oppure Copernico a volere questo brano? Mm. Grande domanda. C'è una notizia importante. C'è una notizia importante? Daccela, va. Draghi non, prima della bolla, ma la leghiamo alla bolla. Anzi, partiamo con la bolla e la leghiamo. Dai. L'avete mai visto il musical? No. Ma stupendo. Bello? Ah no, sì, che l'ho visto, certo. Sì, l'ho visto a Broadway, una cosa meravigliosa. Davvero, mamma mia. Vabbè, allora, mamma mia, sì, va benissimo, perché parliamo di economia, fa rima. La notizia è appena arrivata, che Draghi, parlando, ha fatto un discorso oggi, un convegno a Francoforte, ha detto una cosa molto importante, perché ha detto è presto per cambiare la linea di politica monetaria della BCE. Al momento il riassestamento della nostra politica monetaria non è giustificato, non abbiamo ancora prove sufficienti per alterare significativamente la nostra prospettiva sulle politiche di inflazione. Questo è molto importante per l'Italia in questo momento. Continua. Che sta discutendo della manovra. E naturalmente un cambio nel quantitative easing sarebbe, cioè, drammatico. Sarebbe drammatico per noi, e come è drammatica dal punto di vista politico naturalmente la posizione del ministro Padoan, del ministro dell'economia, che è impegnato, a mio avviso, in questo momento, questa trattativa sulla manovra, sì, che è una questione di rispettabilità, devo dire, del paese. Il PD gli ha posto tutta una serie di condizioni che sì, insomma, più o meno le conoscete. Comunque no all'aumento dell'IVA, no alla riforma del catasto, no all'aumento delle accise, no privatizzazioni. Padoan dice no, ma almeno privatizzazioni, fatemene fare privatizzazioni, intendiamo vendite di quote di Poste, di Ferrovie ed altre partecipazioni eventualmente. Bisogna vedere le condizioni di mercato. Secondo me è molto importante capire che quanto resisterà Padoan alle richieste di non fare niente sostanzialmente, e quindi di fare un programma di spesa in deficit nei prossimi giorni. Lunedì c'è la presentazione del DEF, capiremo di più, però la cosa, a mio avviso, non bella, devo dire, sono le pressioni sul ministro dell'economia, che cerca di tenere il bilancio in sesto, e invece il partito di maggioranza che pensa solo al voto e al consenso elettorale. Non va bene. Salamino! Chi lo disse? Chi glielo disse di farsi eleggere? Salvatore Torrisi, detto Salvo, senatore alfaniano, è stato eletto a sorpresa presidente degli affari costituzionali. Ora, che è successo? Che anziché un esponente del Partito Democratico, viene eletto il senatore Torrisi. Cucci lo disse, peraltro un finissimo giurista, e arriva all'alto scranno con i voti dei franchi tiratori, e nella cittadella della politica succede il Viva Maria. Tutto un ai ai ai. Ma chi glielo disse, insomma, Salvo Torrisi di farsi eleggere? E infatti è tutto a morire. Muore Angelino Alfano, il suo leader, immediatamente allertato dal premier, cioè il conte Paolo Gentiloni Silveri, ha subito rassicurato tutti. Mario, Giovanni li ha rassicurati. Agli ordini, che ha detto, gli telefona a Salvo e glielo dico. Chi te lo disse di farti eleggere? Dimettiti. Qui, secondo la nota, locuzione finisce a schifio. Matteo Renzi, che fino a ieri sera, caro Giovanni, ha dominato il dibattito con l'intervista esclusiva a Panorama, dove, badate bene, ha dato le sue priorità per la salvezza dell'Italia. Come prima cosa ha detto ci vuole Matteo, immediatamente dopo ci vuole Renzi. Ma comunque, per tramite di Maria Teresa Meli sul Corriere, ha fatto sapere che questa storia non passa liscia. Non è che finisce a sparatina. Ma poco ci manca, dice Giovanni, ma fa dire, anzi dicono fonti autorevoli renziane, dice, è un po' come l'attentato di Sarajevo che provocò la prima guerra mondiale. La cosa è virgolettata. Ma non insomma, ci posso credere. Sì. Muoro, è l'incidente parlamentare che porta alla crisi del governo Gentiloni Silveri con la I lunga. Per i renziani è un vulnus gravissimo nella maggioranza. Giovanni, la parola vulnus ti ricorda qualcosa? No. Non c'era Campo nell'Orto che aveva il vulnus? C'era il vulnus? Sì. Era Vespa. No, era Vespa il vulnus di Campo dell'Orto. Ma non era nell'orto il vulnus? Sì, insomma, anche. Ho capito. Comunque, poi la cosa bella qual è? Oh. Qual è la cosa bella? Che il presidente reggente del Partito Democratico, cioè il presidente reggente facente funzioni, supplente e transeunte, cioè Matteo Orfini, ha chiesto l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Addirittura. Sì, signora. Per Torrisi. Mattarella, per Torrisi. Per povero Salvo. Ha chiesto a Mattarella e Mattarella, caro Giovanni, così trapelò. Ma li ha rispediti al mittente. No, proprio fu questo muoro. Ma la vita mia sei tu, ha ribadito Angelino Alfano a Matteo Renzi. La vita mia sei tu, il signor ministro degli esteri, leader del partito AP, che significa a proposito di poltrone, ha dunque chiamato subito Salvo Torrisi e eletto forse, chissà chi lo ha eletto, forse i colleghi bersaniani, forse i colleghi berlusconiani, forse i leghisti o magari gli stessi furbacchioni renziani bisognosi di procurarsi l'incidente di andare presto alle elezioni, tanto vulnus più, complotto. Vulnus meno, dimettiti, ha detto Alfano a Torrisi, il quale ancora stamattina ha ripetuto così, cu te lo disse Angelino. Lo 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms pubblicità. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Mix 24. Ho deciso di candidarmi. Dove c'è discordia, mi auguro di portare armonia. È a capo del governo più odiato che il paese abbia conosciuto. Sì, la medicina è cattiva, ma il paziente ne ha bisogno. Le isole Falkland appartengono alla Gran Bretagna e io intendo riprendermele. Con tutto il rispetto, quando uno è stato in guerra... Con tutto il rispetto, generale, io ho dovuto combattere ogni santo giorno della mia vita. Alla fine degli anni 70, la Gran Bretagna vive una forte crisi socio-economica. Gli scioperi si moltiplicano, i servizi pubblici sono al collasso. Il 4 maggio del 1979, Margaret Thatcher viene eletta primo ministro. Privatizzazione e guerra all'intervento statale in economia, riforme radicali e lotta senza quartiere contro i sindacati, condotta anche con l'uso di metodi brutali, sono le dure medicine che la Thatcher fa ingoiare al suo popolo. L'inflazione del paese torna a livelli accettabili, ma il prezzo che la società paga è devastante. 3 milioni di persone perdono il lavoro nel giro di 4 anni. un personaggio con luci e ombre, criticato e amato. La Lady di Ferro è passata alla storia per la fermezza dimostrata nelle crisi interne e internazionali: la guerra delle Falkland, lo sciopero dei minatori, la tragedia dell'Aisel, la poll tax. Il 28 novembre del 1990, dopo 3 mandati consecutivi e 11 anni di governo nel Regno Unito, Margaret Thatcher conclude la sua esperienza di primo ministro. Muore l'8 aprile del 2013 a Londra all'età di 87 anni. Dunque, dopo il giornale radio, racconteremo la storia politica di Margaret Thatcher. C'è ancora una bolla, Mario? Sì. Storico, Mattia Bazzani, Retroshock, piacere. Giovanni, bello, bello, bello. Sì, l'elettroshock ci sta bene, direi, perché parliamo della rivoluzione elettrica. Allora, qualche giorno fa è uscita la notizia, bastava vedere le quotazioni in fondo, che Tesla ha superato Ford nella capitalizzazione, quindi una piccola casa automobilistica, 5.000 auto mi pare. È curioso, è tutto puntato sulla ricerca. Sulla ricerca e sul futuro, che però dire, nel caso dell'auto elettrica, è vero che oggi sono piccoli numeri, però tutte le mosse che sta facendo che stanno facendo i player dell'industria sono effettivamente in una direzione molto precisa. Pensa che dopo la notizia appunto di Tesla che superava Ford ieri ha annunciato che entro il 2025 il 70% della produzione cinese, che è tanta roba, sarà praticamente tutta ibrida o totalmente elettrica. Questo significa ibrida già tanto anche adesso. Sì. Questo significa che l'efficienza dei motori e delle batterie sarà esponenziale nel giro di pochi anni. Se uno avesse soldi da investire oggi, dovrebbe investire in quel settore là. Batterie, ricerca nel settore dello storage, cioè della conservazione di energia. Energia e dati anche, certo, ovviamente. Ovviamente, perché l'energia serve anche per quello. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone oggi? Oggi una canzone per chi dopo tanti anni si domanda ancora come ha fatto a concedere tanto cuore e così tanto di sé. 883, come mai? Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai.